era stato convocato per Luigi Pardo ma non si è presentato. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Mi sembrerebbe la cosa più giusta da fare, visto in questo periodo la gente ha più tempo a disposizione. Molto probabilmente invece di fare io una cosa a caso, la Coppa Italia, che sembrano partite in clandestinità, ne potremmo fare in un periodo in cui riempiremmo gli stadi. Io penso che sì, penso che si debba giocare anche durante la sosta di Natale e magari dare 5-6 giorni dopo a gennaio. A parte che non è vero che lo convochiamo e non arriva, perché qui io anche sono sempre, alla vigilia di Natale. Ci sono sempre, come va? Bene, c'è Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Andrea Roccabelle, regia. Giorgio De Luca, ma domani è Natale, pensare, ti piace un presepe? Piace presepe. Poi col Napoli che è lì in alto in classifica, piace a maggior ragione a lui. Che mangiate domani? A tutti i tifosi del Napoli. Che mangiate domani? Gli struffoli. Poi gli struffoli. Spaghetti alle cozze stasera al Capitone? Capitone baccalà, non fritto, vero? Lo amo ma non fritto. Quindi lui tornerà poi qui. Lo trovo sprecato, anzi voglio fare un appello a tutti i baccalà all'ascolto, perché dobbiamo ribellarci contro questa cosa che perché ci friggono. Ma tu sei contro le tradizioni, il baccalà è buono alla portoghese, il baccalà la Murigno, no? Sì. A proposito, lo mangerà il panettone, lo mangia, magari mangerà il baccalà o mangerà un sacco. Pensa se alla fine di quest'anno. Pensa, ci sono due scenari meravigliosi. Il primo scenario è che nell'anno peggiore di Mourinho vince il titolo Wenger o magari Ranieri, lasciamo stare. Lì in prestito. Ma c'è anche lo scenario contrario, che lui prende in corsa la panchina del Manchester e vince la Premier League, che sarebbe meraviglioso. Vabbè, comunque siamo qui anche se è la vigilia di Natale. Voi interagite con noi su Twitter @ tutti convocati. Ci saremo anche settimana prossima in diretta, quindi ve lo diciamo già, e tra l'altro con l'orario quello pieno, dalle 14 alle 15:30 da lunedì noi torniamo, quindi assolutamente non vi abbandoniamo mai, nemmeno durante allora le feste. Perché noi siamo un po' come quelli della Premier League, cioè noi facciamo anche outing, noi giocheremo domani, dopodomani. Il 26, il 27, il 28 e a cascata, non si capisce perché in Italia hanno ragione Sarri e Mancini, ci si debba fermare per queste noiosissime vacanze. No, fra l'altro la logica è proprio la logica inglese, va proprio nella direzione di andare a dare una mano alla spettacolarizzazione, no? Quindi voglio dire, nel periodo in cui le famiglie hanno più tempo libero per potersi divertire, io penso che gli stadi sarebbero pieni, certo magari non il giorno di Natale, però insomma vecchio discorso, 26, 27, 28, perché no? Ma qui c'è anche un discorso di tradizioni e di aspetti quasi sindacali dei calciatori. Sì, anche se la Serie B lo fa da qualche stagione. Con grandi risultati. Lo fa con grandi risultati. Vabbè, dal punto di vista dei numeri, a Bodi che dopo sentiamo oggi, proprio perché questo è poi il periodo dove stranamente il calcio italiano concede tutto il palcoscenico alla Serie B. Può sembrare un controsenso, secondo me è un controsenso in una stagione. Ho fatto due conti, qualche giorno fa ho dovuto pubblicare un pezzo in cui dopo 17 giornate gli stadi italiani sono invenduti per il 45% dei biglietti, che è un dato drammatico. Allarmante, che però posso dire, adesso al di là di tutto, sapete che spesso poi il ragionamento viene fatto dicendo che le televisioni possono trarre un vantaggio da tutto questo. Non è così, secondo me non è così. Nessun televisivo, Sky, Mediaset, Rai, può desiderare di trasmettere una partita in uno stadio vuoto. Lo stadio vuoto di per sé impoverisce lo spettacolo, quindi assolutamente da questo punto di vista sarebbe bello che gli stadi fossero più pieni. Io credo che ci sia un aspetto essenzialmente infrastrutturale molto molto importante. Stiamo cominciando con Udine, dopo Torino, poi i progetti che verranno fuori. Sono degli stadi dove veramente non è bello andare perché la partita la vedi meglio da casa, perché ci sono degli stadi, per esempio anche Reggio Emilia, che è uno stadio comunque abbastanza moderno come concezione, però ha le curve che sono scoperte, quindi se piove, io ho fatto Sassuolo-Juve, quei poveri spettatori si sono beccati 90 minuti di nubifragio. insomma, in Inghilterra è un'altra cosa, in Germania è un'altra cosa, ragazzi. Proprio sì, la qualità degli impianti è un'altra cosa. Io penso che ci siamo proprio disabituati ad andare allo stadio. Ed è molto triste. Molto, perché è la cosa più bella, te lo dico da persona di televisione, quindi appunto c'è questa leggenda metropolitana che dovremmo avere un vantaggio. Invece no. Invece l'invito che facciamo anche nel giorno prima di Natale, ovviamente compatibilmente alle finanze, compatibilmente al tempo, compatibilmente alla voglia, è di dare ancora una possibilità al piacere più bello che c'è, che è quello di arrivare allo stadio, nel momento nel quale vedi la prima immagine appena arrivi allo stadio e vedi il prato, e insomma è emozionante. A me dopo tanti anni mi emoziona ancora. Sì, è sempre un momento emozionante, meno emozionante, anzi annoio un po', al di là che noi insomma ci abbiamo fatto due chiacchiere, è il dibattito sulla sosta di Natale, perché tanto se ne parla tutti gli anni. Poi non si fa, quindi. I calciatori vogliono fare le ferie a Natale, tornare a cavallo di Capodanno, da qui non ci si schioda, basterebbe poco. Ma tu sai che per esempio lunedì scorso ho trovato, mi ero mosso in anticipo perché sapevo che i calciatori non c'erano, quindi ho chiamato Prandelli, che anzi ringrazio, che è appena tornato in Italia, perché se no i calciatori non trovi nulla, cioè mezz'ora dopo la fine dell'ultima partita della domenica o del sabato del campionato sono già tutti partiti. Beh, giustamente, non è che, perché mica devono stare qui a forza, però questo ti dà proprio il senso di un'abitudine che c'è in Italia, che si potrebbe cambiare sicuramente, anche perché poi se giochi adesso magari non giochi dopo, no? Potresti togliere un paio di turni infrasettimanali. Vabbè, comunque sì, insomma, c'è grande letteratura anche sull'abitudine di andarsene con la testa mezz'ora prima della fine dell'ultima partita, prima della sosta di Natale, tema di cui si è discusso molto dallo sbrocco di Allegri sul finale di Carpi Juventus a quello che è successo a San Siro con Mancini, l'Inter comunque alla fine la partita l'ha persa con la Lazio, con un allenatore che dice: io ho capito già dal riscaldamento che le cose non andavano. Poi insomma la persona normale, il tifoso, si chiede come possa fare una squadra prima in classifica a sottovalutare l'ultima partita prima della sosta. Questo resta un mistero, però dobbiamo capire che i calciatori sono fatti così. Oggi cercheremo insieme, in questa ora e mezza, perché siamo in onda fino alle 15:30, di cercare un po' di fare le carte del campionato. Avremo il primo ospite, un grande allenatore che cui purtroppo è andata male in questo campionato, che è il campionato in cui è anche degli esoneri, anche se poi soltanto al Bologna è andata bene cambiando panchina, cioè è arrivato Donadoni, sta facendo meglio di Delio Rossi. Decisamente. Era anche difficile fare peggio rispetto ai numeri di Delio Rossi, però si conferma che c'è una certa inutilità nel cambiare panchina. Sì, in alcuni casi secondo me è addirittura un rischio. Penso a Palermo, insomma, con tutto rispetto per Ballardini, ma mi sembra che Iachini quantomeno avesse un maggiore gradimento da parte dei giocatori, che non può diventare l'unico elemento di discussione e di decisione per una società, perché questo vorrebbe dire che la società è estremamente debole se fa soltanto le cose che piacciono ai calciatori. Però è un elemento, quando c'è un certo tipo di feeling, i giocatori si schierano con l'allenatore, come è successo per esempio un anno fa al Real Madrid con Ancelotti, francamente non tenerne conto secondo me è sbagliato. Sì, diventa controproducente. Ci fermiamo, c'è il traffico, perché il traffico, soprattutto perché è la vigilia, ci sono tante persone sulle strade. Poi torniamo con questo, insomma, grande allenatore, ha fatto grandissime cose, poi quest'anno i numeri sono lì, insomma, a certificare le difficoltà del suo Verona. Traffico. Tutti convocati. Giorgio De Luca, da cui ci dissociamo. No, io invece apprezzo molto, bellissima. Allora, voto alla prestazione Canora. Questi erano i giocatori della Juve. Voto 4 alla prestazione Canora, voto 10 all'ironia, quindi benissimo, e voto 10 anche a De Luca, anche perché sono De Luca, ma poi ci sono anche i saluti del Napoli, Sì, dopo sentiamo. Figurati se mancano i saluti del Napoli. Buongiorno professor Mandorlini, come va? Come va? Buongiorno, ma come va? Stavi meglio, riposo, stavi meglio 22 meglio. Anni fa alla Manzanese, sì. Quando hai iniziato la carriera di allenatore? No, dai. No, stavo meglio 3-4 settimane fa, diciamo, anche se le situazioni non erano insomma, grande rose, però insomma si stava meglio lì, meglio quando si stava peggio. Perché poi non è vero che quando le cose vanno male è un sollievo per un allenatore il momento in cui ci si stacca, non è vero? Cioè voi comunque alla fine poi state male, cioè ci state male dentro. Ma ognuno ha la sua storia, insomma Verona è stata insomma pesantina, sono 6 campionati, 5 anni. Sono state tante cose positive, quindi uscire così insomma è un po' dura, però fa parte del gioco, accettiamo, però è dura. Ma tu ti sei dato una spiegazione di perché quest'anno le cose siano andate così diversamente rispetto al passato? Ma sai, ogni stagione, come dicevo prima, ha una sua storia. Noi abbiamo avuto un'infinità di emergenze, tanti infortunati in settori importanti, Luca e Pazzini nei 3 giorni che abbiamo fatto, insomma, la prima partita domenica e mercoledì hanno perso 2 giocatori più importanti, poi una serie insomma di problemi soprattutto legate alle innumerevoli infortuni. Ecco, poi chiaro, siamo andati in vantaggio 5-6 volte nella prima parte, siamo sempre stati recuperati, quindi sai, la Serie A è quella, non ti permette di, e quindi non ci ha mai permesso di lavorare se serenamente, soprattutto il continuo, insomma, così innumerevoli infortuni che abbiamo proseguito insomma tutti i giorni, insomma tutte le settimane. Si è un po' sopravvalutata la rosa quest'estate, nel senso che il Verona veniva da 2 stagioni in Serie A ottime, 2 anni fa addirittura 17 vittorie, lo scorso anno se non sbaglio 12 o 13 vittorie, comunque un campionato tranquillissimo. Sai, adesso è facile dirlo, ovviamente qualche errore l'abbiamo fatto tutti, io per primo mi assumo tutte le responsabilità, però io credo che l'errore più grosso, che non è stato un errore, cioè l'infortunio di Luca è stato pesante, perché certo, insomma i 2 mesi, insomma sai, le prime 6-7 partite, insomma noi, ripeto, abbiamo giocato in 3 squadre, eravamo in vantaggio, poi però insomma bisogna dare continuità, e la continuità l'abbiamo mai avuta, perché Luca che credo che insomma è il giocatore importante, poi di pari passo con la riserva tra virgolette, chi lo doveva sostituire, Pazzini, anche lui fuori per 2 mesi, quindi è stata molto molto dura, quindi io rimango a quelle situazioni lì. Poi gli errori li abbiamo fatti e sicuramente li stiamo pagando tutti, li sta pagando la società. Ma provando a cancellare il fatto che sei dalla parte dell'esonerato questa volta, poi la carriera è lunga, capiterà anche il contrario. Prima davamo qualche numero, soltanto il Bologna con Donadoni ha migliorato fin qui e ha avuto un sensibile beneficio dal cambiare allenatore. Poi vale la pena o no cambiare allenatore? Ma io anche se sono dalla parte del senato, ho parlato con il presidente, con la società, io era giusto andare giù insieme, se doveva essere così andare giù insieme, anche perché insomma sono stati 5 anni sempre insieme, siamo partiti, io ero la seconda proprietà, con la proprietà con questi insomma siamo andati dalla Serie C, abbiamo sfidato l'Europa League 2 anni fa, quindi una stagione negativa sotto tanti aspetti, soprattutto ripeto quella degli infortuni, quindi era giusto, anche più dignitoso che andare giù tutti insieme e ripartire, però la società deve provare tutte come è giusto che abbia fatto, e credo che debba fare questo passo. C'è il logorio, nel senso che quello che mi viene da pensare vedendola da fuori è proprio questo: nessuno può discutere la qualità del lavoro di Mandorlini a Verona, la doppia promozione, annate indimenticabili, e poi però insomma che cos'è, una sintesi che poi alla fine tutto finisce, che forse a un certo punto qualsiasi gruppo, qualsiasi squadra ha bisogno di qualche stimolo nuovo? Ma non so, forse io, anche tu avevi bisogno di uno stimolo nuovo? No, io personalmente mi sentivo molto più forte quest'anno di tutti gli altri anni, perché proprio vedevo le difficoltà, quindi anche il mio approccio alla gara, come prepararle, era più forte, più maturo, forse è anche migliore visto anche gli anni precedenti, però questo non è bastato, però ripeto, adesso è difficile dirlo, però io parlo di Luca, di Pazzini, ma senza contare tutti gli altri, Gomez, tanti giocatori importanti persi per tante giornate, per non dire dei mesi, quindi era un'annata così, e per quello che credo che era più giusto viverla insieme fino alla fine. Sì, però, parliamo di un altro tuo amore, perché tu non hai mai nascosto di essere rimasto abbastanza legato dall'Inter, ovviamente. Bambini lo siamo stati tutti. Può farcela? Beh, quest'anno io credo che abbia tante tante possibilità, è che sono tante le concorrenti, poi io insomma nel sottofondo, una delle più importanti è rientrata alla grande, quindi molto molto molto molto molto combattuto, però credo che l'Inter abbia tutte le qualità, tutte le caratteristiche per poter arrivare fino a lottare almeno fino alla fine. C'è un po' la sensazione che ora che è rientrata la Juve sia di nuovo la favorita, proprio perché è quella più attrezzata, più abituata a stare lì in testa, a vincere. Io attrezzato, credo che sia attrezzata anche il Napoli, la stessa Inter, la Roma. Ecco, più abituata, perché vince, non sono frasi fatte, però è così, aiuta a vincere. Poi adesso non so, adesso continuerà questo primo turno, insomma questo ottavo di finale della Champions League, se dovesse venire eliminata poi sarebbe ancora più difficile. Più arrabbiata e più libera di impegno. Libera, soprattutto libera, perché insomma le coppe ti portano via, quindi la grande, grandissima concorrente che è rientrata in poco tempo, perché insomma 7 vittorie di fila, la dico tanto, dice tanto, ecco. Senti, lunedì ci siamo svegliati, o meglio, in tardo pomeriggio, con questa ricostruzione della Gazzetta dello Sport su un post partita Jovetic Mancini abbastanza arroventato in Inter Lazio. Io sono dell'idea che entro certi limiti sia quasi positivo, sia quasi fisiologico, no? Che di fronte a una difficoltà ci possa essere questo tipo di clima. Tu qualche situazione così l'avrai vissuta. Beh, poi lo zio ci raccontava del trap, esatto, un paio di giorni fa. L'Inter l'ha smentita questa cosa, e quindi, per carità, noi sappiamo che c'è la smentita, però in assoluto, in generale, a me non sembra un grande problema, anche se fosse. No, non credo sia un problema, insomma. Poi stiamo parlando di un grande giocatore, un grande allenatore, credo che ogni tanto, insomma, di confronti anche duri, decisi, ci sono sempre stati, ci saranno sempre, quindi e bisogna sempre avere equilibrio nel giudicare sia da una parte che dall'altra, però credo che sia questo sia un motivo anche di confronto e di crescita tra un grande giocatore, allenatore che ha fatto tanto e che sta facendo tantissimo per l'Inter. Senti, noi abbiamo raccontato tanto degli allenatori a rischio sotto pressione, Mihajlovic, Pioli, insomma l'elenco in questa parte di campionato è stato lungo. Si allena meglio sotto pressione? Anche questa è una leggenda metropolitana, i dirigenti lo fanno, magari hanno già deciso che li mandano via prima o poi, o gli serve il capro espiatorio. Siamo tutti di passaggio. Siamo tutti di passaggio. Beh, non lo so, sì, beh, io insomma parlo della mia situazione personale, insomma dopo anche, dicevo prima, sei campionati, 5 anni, sono stato anche tanto tempo, quindi per vedere un po' così la statistica di tanti allenatori, però non so, ognuno la vive personalmente. A me sotto pressione piace perché Non la vedo come un qualcosa che ti porta via, anzi, quello che dicevo prima, noi a Verona sono stati tanti anni positivi, abbiamo avuto fin dall'inizio sempre, perché anche se è provincia, però vive il calcio in prima persona, quindi non grande pressione dal punto di vista proprio dell'allenatore, però dei risultati che non venivano. Io, quello che ho detto prima, mi sentivo più forte, più convinto di quello, però questo non è bastato. E quindi personalmente dico che io sto bene quando sento pressione. Mandorlini ha giocato contro tutte quelle che si stanno giocando lo scudetto, tranne la Juve, che è credo la prima partita. È la prima partita del Verona dopo il giorno della Befana, insomma, dopo la ripresa del campionato. Ti sei fatto un'idea di quella che ti è piaciuta di più? Ma quella che mi è piaciuta di più il Napoli, che ne ha fatto fatica fino al 75esimo, abbiamo tenuto, poi quando gli spazi sono un po' allungati, insomma, le qualità sono immense, ecco, quindi Napoli quella che mi ha fatto più impressione, però. Anche perché secondo me l'hai beccata in un momento in cui era veramente al top della, esatto, anche dell'autostima, perché quella partita l'ha vinta proprio con la sicurezza delle grandi squadre, cosa che ha un po' perso. Sì, l'ha vinta perché, ma io ripeto, parlo sempre della nostra, abbiamo tenuto in gara fino alla fine, certo. Però è chiaro, al primo errore loro hanno capitalizzato, e poi insomma è sempre molto difficile. L'Inter l'abbiamo preso in un momento in cui, come forse meritavamo anche di vincere a Milano, in un momento in cui l'Inter non giocava bene, quindi all'inizio della stagione. La Roma l'abbiamo presa la prima giornata, sinceramente avremmo meritato di vincere, per un infortunio del portiere hanno pareggiato, se no avremmo meritato di vincere quella partita. La Juve, ripeto, la incontreranno adesso ed è quella che sta meglio, anche se c'è questa pausa, però insomma io credo che la Juve sia quella più abituata a vincere. Il Napoli mi ha fatto una grande impressione. Sì, poi è un po' dipendente dai gol. Abbiamo incontrato anche la Fiorentina è una squadra che ha fatto bene con noi, abbiamo fatto. Ma tu ci credi alla Fiorentina o è troppo poco strutturata per pensare di arrivare fino a maggio? Ah, dal punto di vista della struttura forse non è ancora pronta, però gioca bene, ha entusiasmo, ha un ambiente insomma tranquillo per quello che può valere, e io credo che possa stare lì, perché non ha niente da perdere, è serena, spensierata, un po' come i tanti giovani che butta dentro, quindi credo che possa essere veramente un grande outsider. Siamo all'ultima domanda, al momento top della giornata, il menù di Natale a casa Mandolini. Innanzitutto parliamo di Romagna, no? Allora, beh, la conosci bene anche tu, allora. Quindi, che facciamo? No, mia mamma fa le lasagne, quindi lasagne, poi non so, io sono un po' cacciatore, quindi qualche tordo arrosto, quindi un po' così, poi il classico panettone, solite cose. Meglio degli struffoli di De Luca, comunque. Il baccalà. Non lo so, No, il baccalà, il capitone, ma poi quella c'è la cena, è la sera, che è stasera, è la sera di Magro, no? Sì. De Luca, sto cercando di farmi invitare a casa De Luca, ma niente, sto capitone non lo molla, non mollo capitone. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie. Che fai l'anno prossimo? Dove alleni? Dove ti piacerebbe? Piacerebbe, non lo so, ho ancora un anno e mezzo di contatto col Verona, non lo so, adesso è ancora troppo fresco tutto e penso, non ho ancora pensato a niente, ancora in testa Verona e vediamo. Va bene, bocca al lupo. Grazie Mandorlini. Grazie ad Andrea Mandorlini. A grande richiesta, gli auguri del Napoli. Feliz Navidad y próspero año nuevo a todos los tifosi del Napoli. Buenas noches, buenas noches a todos. Feliz Natal y un próspero año nuevo a todos los torcedores del Napoli. Buon Natale, felice anno a tutti i tifosi napoletani. Prospero anno nuovo, De Luca è contento. Torniamo, c'è la pausa. In napoletano come si dice? Come si dice in napoletano? Cosa? Tanti auguri, buon Natale. Sì, c'è tanti auguri, buon Natale. Come in italiano, tanti auguri e buon Natale. Sai che lui è. Ma sai che ormai c'ho la statuina del presepio di San Gregorio Armeno. Ormai la mia vita è cambiata, quindi mi sento proprio. Tra l'altro pensavo di fare il bue, invece ho fatto la statuina con me. Invece fai l'asinello. Ci fermiamo, torniamo subito. Il 2016 segnerà la fine della crisi? Quello che è certo è che dopo 7 anni il paese è profondamente cambiato. Dai consumi al tempo libero, dai modelli di impresa alle abitudini alimentari, nulla tornerà come prima. Radio 24 vi porta in viaggio nell'Italia che verrà, il venerdì nel GR delle 7 e la domenica nel reportage delle 8:15. Questo weekend, la spesa alimentare è consapevole, meno sprechi, più tradizione. Di Laura Bettini. Audiogrammi speciale Natale. Sei Alex Larson? Dipende da chi me lo chiede. Ti ho mandato una lettera. Chi mi conosce non mi scrive, perché non so leggere. Per cui non posso conoscere uno che lo fa. I grandi classici del cinema e della letteratura raccontati alla radio. Il signor Davis ha detto che dare un'istruzione a una donna è utile quanto dare un'istruzione a una gatta. Il 24 e il 31 dicembre, tornate bambini. Vivrete le emozioni di due grandi storie, come mai le avete ascoltate. Deve tornare libero, è la sua magia. Vi aspettiamo il 24 e il 31 dicembre alle 22 su Radio 24. Audiogrammi, in radio come al cinema. Tutti convocati. Perisic, il verticale per Icardi, lo scatto di Icardi, Icardi, Icardi in rete, Icardi, settimo gol in campionato, ha pareggiato all'Inter. C'è il taglio da parte di Khedira e poi Mandžukić, 2-1 Juve, la legge di Mario Mandžukić la capovolge lui. I fogli, ma se non credo di ricordare male, abbiamo Aldo Serena. Beh, è chiaro. Aldo? Aldo? Ce l'abbiamo, sì. Mangi lasagna pure tu domani, 25 dicembre. Oh, ma è la curiosità. Parliamo tutto l'anno di calcio, fammi chiedere il pranzo di Natale. Bravo, bravo, pranzo di Natale e poi montagna. Ecco, quindi stasera, 24 sera, cena di magro? Cena dimagrissimo e domani ci si lascia andare. Sì, ma dimagrissimo che si intende? Non è che risottino fai bianco? Brodino. Dai, vegetale. Allora, parliamo di domani. Domani invece? Ah, domani c'è di tutto e quindi mi devo tenere. Qual è il piatto di Montebelluna? Carne. Qual è il piatto di Montebelluna? C'è un po' di tutto, guarda, il pesce e la carne domani, quindi non sto a specificare, ma devo dire, mia moglie è un'ottima cuoca. Mamma mia. Pesce e carne insieme, facciamo sintesi. Perché abbiamo mandato in onda i gol dei centravanti? Perché c'è Aldo Serena. Perché c'è Aldo Serena, sì, l'abbiamo fatto apposta. No, perché tra i vari temi di questo campionato c'è quello che un po' tutte le squadre che sono là davanti hanno un grande attaccante, un grande centravanti. E sono tornati numeri 9 dopo le stagioni del falso 9, del gioco che non prevedeva più l'attaccante di riferimento, eccetera. E personalmente questa è una cosa che a me piace, perché a me piace il calcio dove c'è un attaccante, un buon centrocampista. Non lo so, cioè stiamo festeggiando qualcosa di casuale che sta accadendo, perché tutti hanno, cioè c'è Higuain che è dominante, eccetera, o è davvero qualcosa che sta cambiando, Aldo? Ma io penso di sì, c'è un detto antico ma che è sempre valido: quando gli attaccanti fanno gol vuol dire che la squadra sta funzionando, e non è sempre vero questo, ma in gran parte lo è. Il centravanti il ruolo del centravanti è cambiato nel tempo, non ci sono più i centravanti fermi, statici, che aspettano la palla per poter appunto mettere il pallone dentro la rete, ma invece ora vengono anche chiamati a un lavoro diverso, più faticoso, ma d'altra parte più giusto, perché bisogna soffrire e faticare nella fase di non possesso, però ecco, quelle qualità devono essere mantenute intatte. Tra quelli che ho sentito prima vorrei anche citare Bacca, che non ha un gran aiuto e supporto dalla sua squadra, però ha centrato fino ad ora 8 gol e non sono pochi, perché le occasioni che i suoi compagni gli hanno regalato sono veramente poche, estremizzite. Quindi il podio qual è? Higuain primo? Vabbè, Higuain esatto. Primo per definizione. Poi secondo Higuain, terzo Higuain più e o meno. E dopo Higuain sotto il podio. Kalinic c'è la sorpresa. Kalinic secondo, sì. Sono d'accordissimo. No, invece ci metto Mandzukic secondo, poi ne discutiamo. Metto poi Mandzukic il terzo. Tuo terzo, Aldo? Beh, il mio terzo... Dybala? Dybala non è propriamente un centravanti, viene adoperato in maniera diversa la Juventus. A Palermo giocava da prima punta, qui gioca fra le linee, è dedicato anche al raccordo con i compagni di metà campo, però è un giocatore che secondo me arriverà in doppia cifra, ed è un giocatore che farà sempre tanti gol, perché ha quella voglia di emergere, quella determinazione, quella fame, come si suol dire, che lo porterà in alto. Chi è il più springstiniano, il più rock degli attaccanti, visto che stiamo parlando di uno dei più grandi fan di Springsteen della storia? Allora, rock, allora diciamo Mandzukic, perché è così spigoloso, è così roccia quando si butta in area, soprattutto anche il secondo gol fatto contro il Carpi è proprio un gol da attaccante puro, vero, di sfondamento. Io non credo sia un caso che la Juve è rinata nel momento in cui Mandzukic ha trovato una sua collocazione, una sua continuità, i gol. Io credo che in realtà ha ragione Aldo quando dice i centravanti segnano quando le squadre stanno bene, però vale anche il contrario, cioè la Juve prima mancava quella figura lì, poi abbiamo scoperto anche un trascinatore, non soltanto uno capace probabilmente alla fine di arrivare vicino ai 20 gol. Per quello io ti dico, al secondo posto metto lui, perché ci vedo tanto di Mandzukic nella rimonta della Juve. Sicuramente Mandzukic è cresciuto tanto nell'ultimo periodo, la squadra sta giocando con tempistiche più immediate e lui ha bisogno del pallone dato con i tempi giusti, perché è un attaccante, anche se è abbastanza completo, perché la prima rete appunto effettuata contro il Carpi è stata di agilità, di destrezza, per uno che è 1,90 m e che ha quella mole non è semplice, ma lui nonostante questo è abbastanza agile. Io penso, guarda, a inizio stagione prevedevo una coppia Morata Dybala strepitosa e straordinaria, e continuo anche a pensare questo, anche se Morata ora è in crisi, quando entra in campo vuol far troppo e ha perso la tranquillità, la lucidità per fare le cose per bene. Io credo che quei due se si trovano, se riescono a insieme a Allegri li aiuta a trovare un'intesa, potrebbero essere una coppia unica. Però per Morata non c'è spazio, cioè io non ce lo vedo una Juve che riesca anche a recuperare Morata dandogli dei minuti importanti da titolare, cioè una scelta va fatta. Sì, sì, l'ha fatta perché Mandzukic ha risposto sempre sì all'appuntamento e quindi finché sta giocando in questo modo io penso che la titolarità sia sua. Da non trascurare anche Zaza, perché Zaza ha giocato pochissimo, ma in quelle occasioni merita anche lui uno spazio. Che gli consiglieresti? Di andare. Di andare perché di andare è, chiuso, è chiuso, quindi lì ha anche prospettive azzurre, Conte lo aspetta e quindi io penso che abbia anche delle squadre che lo vogliono, che lo stimano, io gli consiglio di andare. Ma secondo te, visto oggi, cioè dovesse fare oggi le convocazioni, chi porta l'europeo Conte davanti? Oggi. Adesso a gennaio, a dicembre, gennaio, prima di capire ad esempio se Balotelli farà una seconda parte di stagione che possa mettere dei dubbi a Conte, prima di capire se Zaza andrà o no a giocare, perché su me Zaza oggi è fuori e dopo questo giro è d'andata, praticamente non ha mai giocato, chi si porta? Ma per lei di sicuro, perché per lei è il suo riferimento, anche se è un giocatore non completo, ma devo dire che nel comune del gioco di Conte sta facendo bene e Conte ha bisogno anche di un giocatore con quella stazza, quella forza, quella capacità di tenere su palla. E poi ha tante seconde punte, ha giocatori che attaccanti esterni bravi, ecco, attaccanti centrali ne ha pochissimi. Sì, che è un po' il nostro difetto principale, no? Sì. Ci vorrebbe un Aldo Serena vero. Io mi candiderei subito se avessi 25 anni. Ti manca un po'? Sì, ogni tanto quelle emozioni forti, quell'adrenalina, quella prima partita, ma anche poi quei 10 secondi dopo il gol in un San Siro pieno, sono cose che rimpiango un po', che mi mancano. Aldo mi ha fatto leggere, spero di non rivelare nulla di particolarmente segreto, mi ha fatto leggere poche righe molto poetiche dedicate al momento del gol e a quanto tutto quello sia però poi alla fine qualcosa di fuggitivo, no? Di qualcosa che ti rimane addosso da lui. Ah, scritte da il numero uno, veramente. Ma cos'era, una poesia, prosa, cos'era? Delle riflessioni così, ormai penso al passato e mi ricordo quelle emozioni, ogni tanto le voglio anche mettere su carta perché così poi me le rileggo e ne ritrovo anche di nuove, ma perché fa parte di un periodo della propria vita che è limitato, che ti dà gioie profonde e che forse in giovane età non vengono neanche raccolte così tanto, non vengono apprezzate, perché a quell'età hai anche altri desideri, poi il tempo passa, diventi un po' vecchio e ti ricordi che quelle sono situazioni che proprio ti hanno segnato, sono delle cicatrici profonde che hai dentro, che senti ancora. E fra l'altro, insomma, il suo punto di vista è particolarmente interessante perché è chiaramente l'opposto del giocatore bandiera, no? Nel senso che lui ha giocato nelle due grandi di Milano, nelle due squadre di Torino, quindi ha avuto una carriera nel Bari, ha avuto una carriera da questo punto di vista molto diversa dallo stereotipo della fedeltà assoluta. In però un'epoca in cui mi sento di poter dire era diverso rispetto a oggi. Sì, lui è un'eccezione, sì, ha iniziato. Insomma, era un'epoca in cui si cominciava a non avere più le bandiere, però c'erano. No, assolutamente. Però ecco, insomma, nonostante questo, poi credo che ci sia stata la stessa forma di sensibilità, poi alla fine il destino, i calciatori non è che se lo scelgono, no? Nel senso tu eri uno che esultava sempre, comunque, non sempre, è che stava sempre lì a farsi problemi. No, non mi facevo problemi perché appunto quello è un momento unico, hai una fusione con lo stadio, con i tifosi, ti senti parte di loro, quando corri e urli guardandoli in faccia, li vedi quei sorrisi, quelle urla che sono le tue, quindi è una fusione che così sia solo nello sport in quei momenti, anche perché è una situazione abbastanza animalesca, ecco, è poco ragionata, quindi è un respiro profondo quello lì, è una cosa molto che viene da dentro. Senti, tu prima hai parlato di Bacca, quindi vale tutti i 30 milioni che è stato pagato, tutti? Per me è un bomber che farà tanti gol, è servito pochissimo, naturalmente fa parte di quella categoria di attaccanti che nella fase di non possesso, ecco, bisogna sensibilizzarli, l'allenatore deve fargli capire anche che deve lavorare anche un po' per la squadra, però è un attaccante che come pochi vede la porta, sì. A lui bastano veramente due occasioni, è quasi infallibile lì davanti. Sì, no, ma io sono convinto che nel campionato fin qui così così del Milan, assolutamente deludente, i tifosi sono desiderosi di qualcosa di meglio, di qualcosa di più, però ci siano dei segnali di, rispetto al passato, ci siano dei segnali di crescita, dei segnali di una squadra che potrebbe migliorare, insomma, in prospettiva. E credo che Bacca rientri in questo tipo di ragionamento assieme a Bertolacci, assieme a Bonaventura, assieme a Romagnoli. Cioè io sostengo che quest'anno il Milan il mercato l'ha fatto. Hai citato gli ultimi due mercati di Galliani, Bonaventura, no, ma la Romagnoli, di Galliani, di Barbara Berlusconi, cioè, qui è un punto storico. Bacca. Il Milan per anni ha fatto delle scelte, diciamo, di marketing, di spettacolarizzazione. Ero sul pulmino con Galliani, ho fatto un'intervista sul pulmino con Galliani dopo aver firmato il contratto con Ronaldinho, mi ricordo benissimo quel tipo di atmosfera, e sicuramente ci stava, perché insomma quello era un Milan che aveva vinto tanto e che poteva permettersi di fare dei colpi ad effetto perché aveva un'immagine di un certo tipo. Oggi mi sembra che invece il mercato dell'ultima estate sia stato un mercato di prospettiva, di una squadra che credo inevitabilmente prima o poi raccoglierà i frutti. È chiaro, per ora non sono arrivati e questo rende delusi i tifosi, però insomma secondo me si è ragionato meglio quest'estate che in passato. Anche Berlusconi, no? L'hai visto? Cosa vuoi? È abbastanza nervoso. Mi sto riposando, domani è Natale. C'è il traffico, grazie Aldo. Ciao Aldo. Ciao a tutti. Grazie Aldo, Serena, buon Natale. Springsteen. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. I was raised out of steelhead swamps in Jersey some misty years ago. Through the mud and the beer, the blood and the cheers, I seen champions come and go. So if you got the guts, mister, if you got the balls, you think it's your time, then step to the line and bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Questo era per Aldo Serena, no? Beh, questa è una canzone che in qualche modo parla di sport, perché parla della necessità di cogliere, a parte i riferimenti legati al football americano, no? Perché a un certo punto sono citati anche i Giants. Però insomma parla della vita di uno sportivo. Che deve appunto giocarsi la sua palla demolitrice, la sua palla decisiva, quella che sfonda la rete, no? Wrecking ball. E our times go, our times come, momenti difficili che arrivano e che vanno. Vabbè, ma che sì, però bello. No, bello. Mi fa venire in mente che fra le tante palle decisive giocate nelle ultime settimane non ce n'è uno che sia riuscito a raccoglierla. Perché se ad esempio la Juve è rientrata è perché. Qualcuno scriveva un paio di giorni fa, cioè ha scritto: questo è il solito campionato, gli altri giocano a Ciapanò, il problema è che la Juve ha 7-8 punti in meno del solito, altrimenti sarebbe già tutto finito. Sì. Che è anche una chiave di lettura. Sì, è una chiave di lettura. È un campionato dove tutti hanno sbagliato, è un campionato dove statisticamente, dopo tanti anni, la quota scudetto è più bassa e dove il numero di sconfitte delle squadre è più alto. L'Inter ha perso 3 partite, la Juve ha perso 4, la Roma ha perso 3. Insomma, mi sembra che siano tutte lì. Certamente hanno avuto un andamento diverso, perché la Juve ha fatto gli errori, li ha fatti tutti subito. Il Napoli ha avuto una difficoltà nelle prime 3 gare, poi ha avuto un periodo magnifico, poi ha avuto quell'appannamento fra Bologna e Roma, poi è tornato a vincere a Bergamo. La Roma ha avuto alti e bassi con un novembre e dicembre molto molto complicato. La Fiorentina si è persa un paio di volte, però insomma ha avuto un andamento abbastanza regolare. E l'ultima è l'Inter, che insomma ha avuto l'andamento, diciamo, più particolare di tutti, perché ha vinto tante partite 1-0 senza brillare, perché ha avuto i 4 pareggi consecutivi. Sì, ha avuto i pareggi, sì, Palermo, Sampdoria, ha avuto la sconfitta in casa contro la Fiorentina, però insomma sono 5 squadre tutte molto buone, nessuna perfetta, per cui ci godiamo un campionato in questo momento equilibrato. Anche se dovendo scommettere un euro, non andiamo oltre, io credo che poi alla fine la volata sarà a 2, cioè non è difficile pensare di portarsi questo equilibrio fino alla fine. Juve, Napoli, Juventus sicuramente, Lazio, Milan, tenderei ad escluderla, il Sassuolo anche, il Milan forse. Sassuolo, hai escluso il Sassuolo? Ti ricordo che noi siamo Radio 24 e che il Sassuolo sta facendo un grandissimo campionato. Sassuolo, perché il Sassuolo sarà avanti. E ricordo anche che il Sassuolo deve ancora recuperare una partita contro il Torino, va bene? Ecco, il 20 gennaio, quindi potrebbe avere altri 3 punti in classifica. Quindi potrebbe avere una classifica. Forse Sassuolo, potrebbe essere davanti al Milan, credo, no? Dovesse vincere così. Sassuolo, Empoli e ci metterei anche l'Atalanta, sono fra le realtà più belle, più luminose, più. No, pensa che Giampaolo sta facendo più punti di Sarri. Sì, questo è. Allora facciamo un giochino, carissimo Pier. Abbiamo, guarda, il nostro Giorgio De Luca ha scelto 5 perle di queste prime 17 giornate. Speriamo non abbia inserito gol napoletani. Speriamo. Perché sai che qui Napoli ne ha fatti tanti, anche molto belli. Sì, ma... li mettiamo in fila e poi cerchiamo di capire quale piace di più. Se volete scriverci da casa, @ tutti convocati su Twitter, se volete darci il vostro podio dei gol più belli di queste prime 15 giornate. Cominciamo con uno che ha fatto un gol come Van Basten. Vai, Break on your wrecking ball. Alza il pallone Maxi Lopez, si coordina Benassi per il destro, rete! Un gol capolavoro in diagonale, battuto il portiere sorrentino. È un gol strepitoso. Oh, questo era Benassi. Torino-Palermo, ce l'ho, mi ricordo anche, stavo sentendo, credo, tutto il calcio minuto per minuto tornando da una partita, e l'ho capito, ragazzi. No, ma noi non siamo in onda quando c'è tutto il calcio minuto per minuto, quindi De Luca mi guarda male. Stavo sentendo, c'era Pino Insegno, però era in pubblicità, no, sentiamo pure la pubblicità, è saltata per un attimo la frequenza, no, abbiamo una frequenza perfetta, va bene, vi ricordo che è stato un grande anno per la radio, c'è stato anche il saluto l'altro ieri col direttore. Fa, sì, e quindi siamo molto contenti. Benassi, niente, l'ha messo. L'ha messo. Secondo, vai. L'ha messo. Palla al limite dove non può arrivare Higuain, ci arriva invece Cagliacon che prova a sfondare il pallone per Higuain. Porta il tiro, rete! Rete! Napoli in vantaggio! Ancora lui, il Pipita! Che gol è questo? Beh, questo è con l'Inter. Quello, quello con l'Inter. È quello con l'Inter. Ma bello, forse ne ha fatti di meglio, secondo me. La compilation di Higuain di quest'anno è pazzesca, perché quello con la Fiorentina è pazzesco, secondo me. Quello con la Juve pure. Sono tutti un po' simili, sì. però è un simile bellissimo, cioè questa forza poderosa di questo giocatore che parte da... Ah, poi c'è quello col Bologna che invece quello è diverso, Bologna, perché è una magia tutta tecnica da area di rigore. Anche se a me col Bologna piace più quell'altro, il secondo, che fa le 2-3 finte non in possesso di palla, manda a spasso il difensore, poi ricordo bene. Va bene, poi Piniglia. Maxi Morales, occhio alla sovrapposizione, il cross è buono, palla in mezzo, si coordina per la rovesciata, la mette all'angolino, un gol capolavoro, esplode Maurizio Piniglia, è 1-0. Dobbiamo dire che il signor Nucera, Antonio Nucera, è veramente fortunato, perché insomma su 3 gol 2 sono suoi, quindi a livello di telecronaca lo salutiamo Nucera, sì. Starà festeggiando forse a Reggio Calabria o forse all'Odio. Chissà cosa mangia oggi. Reggio Calabria c'è l'Anduia, no? Anduia. Cuscina piccante, salamini piccanti. Giorgio Luca sa tutto, cioè, è un esperto di menù, di Natale. È uno spettacolo, è un paese spettacolare. Sì, assolutamente. Florenzi, che non è campionato. Ma io ci credo questo, davvero, un paese è una roba pazzesca, a distanza di 5 km cambia le ricette. Vai, andiamo. Florenzi, Genoa. È partito Dzeko, Florenzi prova un pallonetto, Trescia fuori porta, fantastico, incredibile, cosa abbiamo visto all'Olimpico, Florenzi magia 1, fantastico Sandro, eccezionale, incredibile. Facciamo gli auguri anche a Sandro Piccinini. Questo non era il campionato. Questo è talmente bello che è uno dei 3 gol inseriti nel Puskas Award. Ma si può ancora votare? Credo di sì. Quindi invitiamo tutti quelli che ci ascoltano ad andare sul sito della FIFA a votare il gol di Florenzi. Saremmo orgogliosi, visto che col pallone d'oro non ci pigliamo. Sì. L'unica cosa per cui ci presentiamo è il gol più bello dell'anno con questo di Florenzi da metà campo. Perché no? Facciamo un po' gli italiani, votiamo le siamo a posto. Sono andando a votare, ricordiamo, gli altri 3 sono di Wendell, sì, Lira e di Lionel Messi, così sì, un minore, Messi è banale, un minore, già vince, sto votando Florenzi. Eccolo lì, devi inserire il codice 384230, tanto è un codice che cambia di volta in volta, votiamo. Mettiamolo. Ecco fatto, ecco, noi abbiamo fatto il nostro in diretta. Ecco, davanti a testimoni, caro Florenzi, non è che adesso dovrei venire per forza a Tiki-Taka e a tutti i convocati. No, no, però io intanto votano per te, ecco. Beh, cos'è il quinto? Brienza. Brienza, ora Brienza, prova il sinistro, Brienza! Capolavoro di Franco Brienza, è il 3-0, chiude i giochi, è il gol più bello del pomeriggio. Eccoci qui, allora, questa era Brienza, la cannonata lì sotto l'incrocio dei pali. Dai, mettimi in fila i tuoi tre preferiti, così da casa poi fanno la loro classifica. Benassi sicuro. Benassi. Florenzi è un gol fuori categoria, nel senso. No, però Florenzi è il più bello di tutti. Sì, lo mettiamo. Bisogna anche solo pensarlo di fare un gol da 50 Florenzi, metri al Barcellona. Benassi e Higuain. No, Higuain no, Florenzi, Benassi e Brienza. Higuain, ma perché non lo, Higuain? No, Higuain non lo mettiamo perché c'era loro, l'abbiamo fatto noi in redazione, abbiamo detto non mettiamo gol di Higuain. Ma chi si è litigato con De Luna? Sono tutti uguali. Sono arrivato, sono andato, vicino appiccicati. Appiccicati, no? Si è intossicato. Si è ricreato. Appicciati, si sono appicciati. Dillo di lui. Appiccicati, ho detto bene, appiccicati. Appiccicati, appiccicati. È un gol normale. Insomma, rispetto a tutti gli altri, è un gol assolutamente normale. Poi dopo c'è che tu sei tra quelli. Ma io sto già in clima cena. Ma ho capito, tu sei tra quelli che ritengono che sia più utile poi che ai calciatori lì. Ma tra 5 ore c'è l'aperitivo. Gli staccano le vacanze prima di Capodanno o dopo Capodanno? Perché sai che adesso il tema è aperto, cioè ci sono quelli che vanno in giro. Il Milan non va in giro quest'anno. Milan non va in giro, l'anno scorso che non è, che hanno sbagliato. Non andava benissimo, stavo per un gennaio terribile. Vanno in giro gli altri. Sì, io sono dell'idea che non me ne può fregare di meno. A me piacerebbe molto che si giocasse, insomma, l'abbiamo detto prima. Mi piacerebbe molto che si giocasse nel periodo di Natale, come fa la Serie B. Secondo me è un'idea di marketing semplice. È il momento in cui le persone stanno con le loro famiglie, in cui il calcio ha la possibilità per andarsi a prendere degli spettatori che abitualmente non ha. Cioè, secondo me può diventare proprio il family day, il family weekend del calcio italiano. Oltretutto, insomma, quest'anno fa meno freddo rispetto al passato, quindi sarebbe stato anche perfetto da questo punto di vista. Cioè, il tema è se sono pieni i cinema il appunto, 26 appunto, sera, appunto. Tardo pomeriggio, perché non possono riempirsi gli stadi? Il pallo panettone non lo possiamo fare? E questo è una cosa che fatichiamo a capire, però così è, quindi si tornerà il 5 gennaio con il derby di Genova, poi il 6 con tutto il resto. Ajair, noi ci fermiamo. C'è Ajair. Ajair, che cosa? Devo andare. Sì, Ajair, deve andare. Noi ci fermiamo. Torniamo Ajair. Dopo Ajair. Il GR. Però questa non è una lezione di napoletano. Wagyu, perché è plurale, no? Sì. Wagyu. No, e quello è singolare. Plurale, Wagyu. Perché cambia. De Luca mi sta insegnando delle cose. Vabbè, no. Vado bene. Salutiamo Genta. Dov'è Genta? Sarà Genta Pavia. Che... È volato via. Lui torna il 6 gennaio, come la serie. È volato via, saluto. Chiamare Genta subito. Adesso mando subito un messaggio. Sì, per dimostrare che non è volato via. Torniamo, però, no, fermo. Torniamo dopo il GR delle 15. Certo. Noi ci risentiamo. Io l'ascolto dalla macchina. Ci risentiamo. Vi abbraccio. Ciao, ciao Piero. Ciao Luigi, ciao Pierluigi. Ciao a tutti e due. Tutti convocati. Sia un Natale emozionante, che fa storia. Beh, un Natale di cuore. E perché no? Anche di denari. Che questo sia un Natale di speranza, che dopo arrivi anche la Befana. Un Natale da raccontare. Beh, che sia un Natale che sotto l'albero porti la svolta non solo economica e non solo a parole. Un Natale in cui stare attenti. Molto, ma molto attenti. Perché se c'è una cosa in cui siamo tutti convocati, è proprio Natale. Radio 24. La passione si sente anche a Natale. Audiogrammi speciale Natale. Sei Alex Larson? Dipende da chi me lo chiede. Ho mandato una lettera. Chi mi conosce non mi scrive, perché non so leggere. Per cui non posso conoscere uno che lo fa. I grandi classici del cinema e della letteratura raccontati alla radio. Il signor Davis ha detto che dare un'istruzione a una donna è utile quanto dare un'istruzione a una gatta. Il 24 e il 31 dicembre, tornate bambini. Vivrete le emozioni di due grandi storie, come mai le avete ascoltate. Deve tornare libero, è la sua magia. Vi aspettiamo il 24 e il 31 dicembre alle 22 su Radio 24. Audiogrammi, in radio come al cinema. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Tutti convocati. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Merry Christmas, I don't wanna fight tonight. Noi abbiamo fatto out in prima, invidiamo molto gli inglesi che potranno continuare ad andare allo stadio anche nel periodo di Natale, e invidiamo anche i tifosi della Serie B italiana che da qualche anno a questa parte non si fermano per le feste. Saluto Andrea Bodi, presidente della Lega di Serie B. Buongiorno presidente. Buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta. Sì, è bellissimo. È bellissimo, si può fare. Si può fare, succede. Ancora parlano alcuni di esperimento, ma ormai è diventata una tradizione, perché quando passano gli anni e gli appuntamenti comunque rimangono lì fissi nel calendario, ormai possiamo parlare di tradizione, è possibile farlo anche in Italia, recuperando le antiche abitudini. Ma come si convincono i calciatori? Perché poi, voglio dire, l'associazione calciatori vale per la B come vale per la A, perché si può in B e non si può in A? Beh, noi l'abbiamo chiesto, questo già fa la differenza. Ci abbiamo pensato, l'abbiamo chiesto a calciatori, allenatori, ne abbiamo parlato con gli arbitri, insomma ci siamo parlati un po' all'interno, e alla fine i risultati sono stati buoni, e dopo appunto il primo esperimento abbiamo capito che poteva diventare una tradizione. E oggi giochiamo, da quello che ho letto, quasi gli unici, abbiamo giocato gli unici in Europa e nel mondo, quello calcisticamente più evoluto, quindi siamo veramente un modello originale. Sì, perché poi noi parliamo del guaio, insomma, del campionato che si ferma relativo alla Serie A, poi in realtà a parte gli inglesi si fermano tutti. Ora, da qualche parte ci sono effettivamente problemi climatici, penso alla Germania e ai paesi del nord, questo è un inverno mite, ma in altre annate diventa impossibile pensare di giocare a fine dicembre, a gennaio, addirittura la Germania si ferma praticamente fino a febbraio. Però è anche vero, ad esempio, che in quasi tutti i paesi latini ci si ferma. Mentre in realtà questo è un momento adatto. Io ho letto qualche numero nelle scorse stagioni, in quasi tutti gli stadi dove si gioca nella settimana di Natale, tra Natale e Capodanno, la Serie B ha fatto segnare delle medie superiori alla media stagionale. Sicuramente sì, tutti segni più di presenza allo stadio, di ascolti televisivi. Catturiamo un po' non soltanto le nostre passioni tradizionali, ma anche quelle degli amanti del calcio in generale, e quindi tanti tifosi della Serie A in televisione guardano anche la Serie B quando la A non gioca, e questo per noi è anche una vetrina, è anche un modo per farci riconoscere, conoscere, apprezzare. E fanno anche un po' un regalo, a lasciarvi il campo libero. Ognuno è artefice del suo destino, noi lo spazio ce lo prendiamo con piacere, lo facciamo in punta di piedi e giocheremo, come sappiamo tutti, anche il 27, e dopodiché ci fermeremo. Ed è bello anche che si chiuda il girone di andata, è un po' uno scandire la stagione in modo chiaro e netto. Si gioca fino al 27, si chiude il girone di andata, si chiude il mese di dicembre, si chiude il 2015, e poi ci rivedremo in campo il 16 di gennaio. Ma visto che tra qualche mese tornerà ad attualità il tema sulle elezioni in Lega, e a Bodi aspira, lo sappiamo, ce l'ha anche raccontato, insomma, altre volte, ritiene evoluzione naturale della sua carriera da dirigente sportivo riuscire a diventare presidente della Lega A, cosa fa? Infila nel programma l'idea che anche in Serie A si cominci a giocare nella pausa natalizia? Intanto, se le aspirazioni di una persona non collimano con le volontà di chi poi decide, rimangono ambizioni anche un po' frustranti, e quindi diciamo che per il momento, al di là della siamo al sogno, siamo al progetto. Sì, ma diciamo che è un sogno che non è certamente un'ossessione, non è neanche un'ambizione eccessiva, anche perché prima di tutto bisogna concentrarsi sulle cose che ci sono ancora da fare, ce ne sono tante, in un anno se ne possono fare tante e noi siamo una piccola fabbrica operosa e quindi vedrete che già nei prossimi 15-20 giorni ci saranno almeno due o tre altre iniziative che lanceremo, perché un po' per vocazione e un po' anche per necessità, quindi prima di pensare a quello che succederà fra un anno, noi stiamo tutti concentrati a partire dal sottoscritto a fare le cose che dobbiamo fare. Mi sembra una bella Serie B quest'anno. Direi sì, tecnicamente direi sì, anche a livello di giovani che continuiamo a lanciare. Il pubblico, dopo 16,7-8% dello scorso anno in crescita, anche quest'anno cresce, non è soltanto perché sono scese dalla Serie A magari squadre blasonate, ma perché cresce tendenzialmente ovunque. Stiamo, credo che per voi sia un motivo anche di interesse per quello che rappresenta la vostra piattaforma, stiamo andando avanti sul discorso stadi con il primo progetto, il primo piano di fattibilità che abbiamo presentato con il Cagliari qualche giorno fa, adesso un convinto che fra un anno si chiuderà l'iter amministrativo e potremo pensare anche alla cantierizzazione e così noi succederà. Ce l'auguriamo tutti, perché la battuta che circola è che il nostro campionato non ha stadi di proprietà, ma quanto a render di proprietà o plastici è il migliore in assoluto, non in Europa ma nel mondo. È vero, ed è esattamente la ragione per la quale Bifutura è nata, proprio per arrivare al rendering e non partire dal rendering. Quello che è stato visto per la prima volta è il frutto di un lavoro di 6-7 mesi di analisi, di ricerche, di domande, di risposte, di ascolto. Poi tutto si è materializzato anche in un disegno, in un rendering, in un plastico, ma contrariamente ad altre esperienze non è stato il punto di partenza, come ho detto, ma il punto di arrivo di questa prima fase. Succederà la stessa identica cosa a Pescara e ad Avellino, quindi, e ne arriveranno anche altri, quindi sono convinto che abbiamo preso la strada giusta questa volta. Si sta muovendo qualcosa, anche i club hanno capito che c'è la necessità di investire, hanno forse capito che è possibile anche trovare delle risorse, cosa che in un periodo particolare economico di crisi come questa è sempre stato reputato difficile, posto che ovviamente un conto è costruire uno stadio da 60.000 posti che costa 300-400 milioni di euro e un conto è dover mettere mano a un progetto più limitato. Intanto i progetti devono avere una logica e una misura, che sono proprio il frutto e la risultante dell'analisi, ed è il primo elemento sul quale ci siamo soffermati, l'analisi del contesto. Noi non abbiamo bisogno di costruire qualcosa che poi non soltanto dopo la costruzione, ma dopo si sostenga. E sono convinto che il modello che abbiamo elaborato noi di stadi intorno ai 20.000 posti si possano sostenere, così come sono convinto, l'abbiamo dimostrato con Sky, che se il prodotto è buono, è affidabile, se le persone sono ritenute credibili, investimenti se ne trovano. E noi credo che il lavoro che abbiamo fatto anche grazie a Sky, che abbiamo sviluppato con la società, lo abbiamo messo a disposizione dei nostri tifosi. Non sottovalutate anche alcuni aspetti che possono sembrare marginali. Noi con una parte delle risorse derivanti dai diritti televisivi abbiamo migliorato per esempio la qualità dei campi di gioco. Può sembrare un fattore estetico, invece è un fattore che ha una grande importanza. Sì, intanto saluto Enzo Bucchioni, collega, ciao Enzo. Sì, buon pomeriggio a tutti, bentrovati, saluto anche il presidente Abodi. Ecco, ciao, piacere. Per affrontare l'ultima parte di questa chiacchierata che racconta, insomma, credo anche con orgoglio da parte del presidente Abodi, la traiettoria di Carpi e Frosinone in questa prima metà della Serie A. Inutile tornare sulle polemiche dei mesi scorsi, le telefonate, il tema insomma delle piccole che avrebbero fatto male al grande calcio italiano. Oggi, da presidente della B, che ha mandato in A Carpi e Frosinone, io non so a Bodi insomma che pensieri fa quando ne vede i risultati. Frosinone è un po' più in difficoltà, sono comunque due società che si stanno giocando la salvezza. Siamo caduti un po' nella trappola perché anche lei ha ripetuto: ha mandato su Carpi e Frosinone. Sì, è un po' va bene. No, è una battuta, ma la realtà è che è normale che ci siano delle differenze e che ci siano delle difficoltà, ma a parte il fatto che il Frosinone è un pizzico più avanti del Carpi e è ancora pienamente in corsa, come sono convinto che anche il Carpi potrà giocarsi le sue carte, perché l'esperienza si fa strada facendo. Non pensiamo di aver regalato o prestato alla Serie A un prodotto di bassa qualità. È perfettamente compatibile, come avviene in tutti i paesi calcisticamente più evoluti, dove ogni anno dalla seconda divisione salgono tre squadre in prima divisione, faticano anche loro, ma non sarà un caso che negli ultimi tre anni due delle tre che sono salite sono rimaste in Serie A. Enzo? Ma io credo che il calcio italiano debba essere orgoglioso se ci sono in Serie A formazioni come il Carpi Frosinone, e venissero tante altre. Vuol dire che c'è chi lavora bene, vuol dire che il calcio oggi si può fare anche senza tutte quella valanga di milioni che sono stati sperperati gli anni passati. Quindi è un segnale che va dato a tutti, che il calcio della Serie B è dato a tutti, questo non c'è alcun dubbio. Fammelo dire alla faccia di Lotito, perché l'abbiamo detto, lasciamo perdere, ma da lì bisogna ripartire, perché loro fanno il calcio sbagliato, questo è il calcio giusto, il calcio che ci riporta alle nostre origini, qua ai derby stracittadini o straregionali che non ci sono più, invece erano l'humus di questo sport, che poi ci chiediamo anche perché perda spettatori. È vero che c'è tanta cosa da rifare, gli stadi non vanno bene, ma dobbiamo ridare anche l'anima, e il Carpi e il Frosinone hanno dato un po' di quest'anima. Poi questo è l'anno che porterà gli europei, porterà il cambio in federazione, il cambio comunque alle elezioni in federazione, poi vedremo quale sarà l'esito. Io non so, Enzo, tu che voto dai a oggi, al netto anche qui delle polemiche, dei veleni e tutto, e che cosa dobbiamo augurarci che capiti? Visto che poi si comincia a discutere molto di politica sportiva, Andrea Bodi ha avuto una posizione nell'estate del 2014, al momento dell'elezione di Tavecchio. Io non so se ha cambiato idea o meno, poi glielo chiediamo, Enzo. Ma io posso dire, mi vergogno sempre un po' di chi mi rappresenta a certi livelli, perché queste reiterate cadute di stile può succedere una volta. Io sarei per un vento deciso di rinnovamento, spero che accada l'anno prossimo, ci saranno le elezioni, spero che comunque spero in una vittoria degli europei da parte dell'Italia, però questo non deve significare la restaurazione, cioè questa classe dirigente non può farsi forza di un eventuale successo che arrivasse dal capo. Invece sento che qualcuno già comincia a dire Conte resta, come se fosse Conte una proprietà di chi sta governando ora. Io spero che veramente si capisca che siamo di fronte a uno spartiacque, che il calcio italiano per tornare ai livelli dove è sempre stato ha bisogno di profonde riforme, di idee nuove, ma anche di persone nuove che non vadano in giro a far diventare rosso chi è a fianco o a stare attenti a quando sono i microfoni in giro, perché non deve succedere quello che è successo. Sì, anche se poi Enzo qualche accenno di riforma c'è stato, poi vediamo nei prossimi mesi cosa si conclude. Sì, perché qualcuno di giovane c'è, alcune della struttura. Cose sono state fatte. Mi fai chiedere da Bodi e poi lo salutiamo se ha cambiato idea. Io penso sia importante quello che ha detto lei, anche se ha minimizzato la portata delle riforme. No, non minimizzo, qui ne parliamo spesso, poi ci sono questioni di tempi. Immagino. Allora, prima di tutto io credo che quando si intraprende un percorso e si assume una responsabilità, come abbiamo fatto noi nel nostro peso specifico come Lega, bisogna avere la correttezza di andare fino in fondo e cercare di fare bene il proprio dovere, e quindi noi fino alla fine dell'anno prossimo daremo il nostro supporto perché tutte le riforme che abbiamo promesso di fare vengano portate avanti, perché comunque ci si presenti al prossimo appuntamento elettorale avendo, e voglio ricordarlo, in due anni colmato lacune che erano lì stantie da decenni. E questo è un primo dato. Poi che si possa tutti migliorare, che a volte tutti insieme abbiamo fatto degli errori formali e sostanziali e che abbiamo messo a repentaglio la credibilità del calcio, questo deve essere elemento di riflessione e anche di mia colpa, nessuno escluso, a partire dal sottoscritto. Quello che succederà nel 2017, mancano ancora 12 mesi, sì, no, c'è ancora mesi. Anche qui, come per quanto riguarda la nostra Lega, tantissimo lavoro da fare, abbiamo bisogno di stabilizzare la credibilità del nostro mondo, meno parole più fatti, sarà un anno e poco più di lavoro in questo senso, mi auguro meno parole più fatti. Grazie Presidente. Grazie a voi, buon proseguimento. Grazie Presidente Abodi. Enzo, stai lì, Garrisca vento il lavaro viola sui campi della sfida e del valore, una speranza viva. Oh, grande soddisfazione ai nostri amici fiorentini che ci telefonano, ci scrivono tutti i giorni: perché non parlate della Fiorentina, perché non parlate della seconda in classifica, perché non parlate del grande campionato viola. Eccoci qui, Enzo. Dimmi cosa succede sul mercato di gennaio questo, per la Fiorentina. Questo è Narciso Parigi, tanto per sottolineare, per dire ai nostri ascoltatori. Ma cosa succede nel mercato della Fiorentina? Ha detto Della Valle che non prenderà delle sole, che è un buon, è un buon programma di mercato. Sì, le sole lui le vende, quando lo fa di mestiere, le suole non le prenderà la Fiorentina. Della Valle ha capito che ha davanti un'occasione straordinaria con la Fiorentina al secondo posto, investendo a gennaio può recuperare in estate, magari centrando l'obiettivo della Champions League, che sarebbe qualcosa di straordinario, per il quale entrano anche 50 milioni di euro giù di lì, sappiamo. Quindi la Fiorentina comprerà a gennaio di sicuro un difensore, si parla con insistenza di Lisandro Lopez e questo è uno degli obiettivi. Prenderà anche un esterno di fascia che è capace di saltare l'uomo, di dare maggiore vivacità in certe situazioni con le difese chiuse, e qui posso dirlo, piace moltissimo il Papu Gomez dell'Atalanta. Sì, che piace a tanti, piace anche al Milan. Sì, piace a tanti, piace anche al Milan, alla Fiorentina. È uno dei pochi uomini che salta l'uomo, e questo è un valore aggiunto in un campionato in cui è difficile trovare chi riesce a creare superiorità numerica. Sì, certamente difese che si chiudono, quindi il nostro campionato, la tattica e il tatticismo spesso vince, quindi questi giocatori sono un prezioso patrimonio, chi ce l'ha difficilmente se ne libera, però l'Atalanta in una condizione, ha fatto benissimo fino ad oggi, in una condizione in quel limbo, non ha problemi di classifica, potrebbe anche decidere di venderlo. La Fiorentina è lì in agguato e poi ci sono tante altre idee, perché ripeto, Della Valle ha deciso di investire, questo è un fatto certo, gli operatori del mercato poi probabilmente c'è da risolvere, ecco, questa è una cosa che va sottolineata, il problema Pepito Rossi, che se dovesse andare via in prestito come lui ha chiesto per poter giocare di più e provare a trovare un posto per gli europei, un attaccante andrà preso al posto di Pepito Rossi. Infine Mario Suarez, la grande delusione di qualcosa di straordinario che ha fatto la Fiorentina, c'è una delusione che si chiama Mario Suarez, anche lui ha giocato pochissimo, non si è inserito nel meccanismo del gioco viola, e un altro centrocampista, se lui dovesse tornare in Spagna come sembra possibile, un altro centrocampista serve. Ecco, questo è il quadro della situazione viola per migliorare qualcosa di già straordinario che è stato fatto fino ad oggi. Allora, allarghiamo la platea parlando del calciomercato che sarà, con Oscar Damiani, che saluto. Oscar, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, buona serata. Ha ragione Della Valle dicendo, stiamo parlando della Fiorentina, che bastano che servono un paio di innesti, e con un paio di innesti la Fiorentina può davvero inseguire quel sogno lì, quello di finire tra le prime tre, adesso senza nominare la parola scudetto? Sì, un paio di innesti sarà di grande livello. Ma di grande livello. Che saprà rinforzare la squadra, che già è una squadra è molto forte, ben attrezzata in tutti i reparti, però forse allungare la rosa dei titolari, visto che ci sono anche l'Europa League e quindi molti impegni, potrebbe essere secondo me una scelta giusta. La Fiorentina ha ottimi scout, ottime persone che stanno facendo questo tipo di lavoro, quindi che avranno già sotto occhio due giocatori che potrebbero rinforzare la rosa, quindi penso che, vista la situazione di classifica, sia un modo intelligente per poter puntare veramente alla Champions League. Questo è un campionato che sta facendo venire voglia di investire, proprio perché sono in tanti che ancora si giocano qualcosa di importantissimo. Sì, certamente c'è l'interesse da parte di molte squadre, perché ovviamente anche investire qualche decina di milioni in qualche giocatore importante vorrebbe dire recuperarli con gli introiti dei diritti televisivi della Champions, quindi è un investimento che potrebbe essere veramente fruttuoso. E certamente a gennaio non è facile trovare dei giocatori di livello che possono rinforzare già una buona squadra, senza perché ovviamente gli ha bravi se li tiene, voglio dire, e bisogna fare delle scelte, magari un po' delle scommesse, e non sempre le scommesse si vincono. Sì, un paio di giorni fa il Corriere dello Sport pubblicava una carrellata di alcuni colpi del passato a gennaio, tra i pochi che hanno davvero reso, alcuni fortunosi, ad esempio Barzagli per la Juventus, torniamo indietro di qualche stagione, ma lì era stato il Wolfsburg a mollare, altri diventa difficile. Enzo, e poi lo chiedo anche ad Oscar Damiani, qual è la squadra più perfettibile sul mercato? Cioè quella che può davvero crescere, fare il salto di qualità, guadagnare, magari guadagnare anche qualcosa in questa volatona serrata, con adesso abbiamo 5 squadre in 4 punti. Ma io credo, metto dentro anche il Milan, perché se il Milan dovesse veramente comprare quel centrocampista che manca da tanto tempo, in grado di dare di creare gioco al centrocampo, di essere un po' un punto di riferimento, quello che è stato per tanti anni Pirlo per la Juventus, ma anche per il Milan stesso prima, potrebbe, con l'organico che ha, recuperando Balotelli e Benet, potrebbe anche reinserirsi nella corsa per le prime posizioni. Lo stesso discorso lo faccio anche per il Milan, che ha grande muscolarità, un organico importante, però in mezzo al campo gli manca uno di quei giocatori lì. Lo cercano in tanti, ce ne sono pochi in giro, non a caso Mancini ha telefonato tempo fa, come sappiamo, a Pirlo, cercando di convincerlo a rientrare. Ecco, se il Milan può rientrare con un giocatore così e l'Inter se lo prendesse, potrebbe essere veramente la strafavorita per lo scudetto. Oscar, il Milan prende Witzel, lo tratta, non ci lo prova? No, so, comunque penso anch'io che il Milan possa migliorare la squadra. Le altre squadre la vedo un po' più complicata e un po' difficile. Mi scuso, ma vi devo lasciare perché... Ti lasciamo, Oscar. D'accordo, vi ringrazio infinitamente, a presto, buone feste a tutti. Grazie ad Oscar Damiani, che poi sono giorni questi che stanno per iniziare, che per gli operatori di mercato da fare, esatto, sono un po' particolari. Per chiudere, Enzo, io credo che tra le squadre perfettibili ci sia poco la Juventus, cioè che mi pare già completa, poi probabilmente andrà su un centrocampista, vedremo se sarà vero, quale sarà il profilo di questo centrocampista, ma insomma la Juve ha poco da migliorare oggi nella rosa che ha. Ma a poco, però anche tanto, perché se vogliono riprovare andare fino in fondo in Champions League, secondo me il giocatore come Gundogan, che sarà difficile portare in Italia, però dicono che ci proveranno, potrebbe riportare Marchisio più in mezzo al campo, e davanti alla difesa con un giocatore così potresti veramente fare un ulteriore salto in avanti. Non credo il trequartista, perché il trequartista ti saresti costretto a cambiare di nuovo sistema di gioco, complicherebbe un po' le cose. Il trequartista che piace tanto ad Allegri, in questo caso mai, se rimarrà la Juve l'allenatore se ne riparlerà in estate, però Gundogan secondo me è l'unico che potrebbe veramente cambiare ancora la faccia di questa Juventus. E poi non c'è mercato senza le voci su quello lì. Sono venuto per restare qua, sono venuto per restare in Italia, non lo avevo detto, adesso ti do la conferma a te. Veramente? Sì. Su che sponda? Non te lo posso dire ancora, però sono venuto per rimanere qua. Questa è una notizia, meravigliosa, sì. Per il calcio italiano siamo veramente contenti, però la risata, non so, mi fa dubitare che forse mi stai prendendo in giro. Oh, noi c'eravamo tutti emozionati, sai di quand'è questa voce di Lavezzi, Enzo? No, di quando è? Primo settembre 2014, siamo al 24 dicembre 2015, Lavezzi continua a stare al Parì, però si dice potrebbe tornare a gennaio. Ora, tu a chi lo consigli, ammesso che davvero qualcuno se lo pigli? Ma quando la Juventus giocava con il 4-3-3, con gli esperimenti che aveva fatto Allegri inizio stagione, poteva essere una soluzione per trovare un po' di qualità in avanti. Ora che è tornato a questo modulo 3-5-2 mi sembra sinceramente superfluo, c'è Quadrado che può fare bene quel lavoro. L'Inter è sempre alla ricerca di qualcosa che non trova mai, la quadratura del cerchio. Secondo me è già una squadra già importante, dicevo prima che manca un regista, però so che a Mancini piace anche Lavezzi, anche lì potrebbe passare al 4-3-3. Io credo però un giocatore avanti quegli anni, è vero che lo puoi prendere a poco perché andrà in scadenza a giugno, quindi magari per il Saint Germain con pochi milioni di euro te lo può dare, però è un giocatore che guadagna moltissimo e la sua età non so se diventa un investimento importante, cioè da fare, o un investimento da non fare, perché no, diventa quasi un capriccio, neanche una appunto, ciliegina. Io sinceramente non vedo una squadra che ha necessità in questo momento, necessità assoluta di prendere Lavezzi. Punterei, come dicevo prima, su un centrocampista, ecco, quello sì, centrocampisti sono la mia passione, perché sul centrocampo affondi le grandi squadre. Abbiamo tempo ancora, 30 secondi, mi fate sentire l'altra voce su quello che poi è in questo momento il vero colpo già annunciato di mercato. Siamo 28 giocatori, uno in rampa di lancio che è il Boa, che se Boa arriverà, come arriverà, saremo in 29, deve uscire qualcuno, perché non giochiamo a rugby dove si gioca in 15, si gioca in 11 a calcio. No, hai 30 secondi, Enzo, per spiegarmi cosa serve Boateng al Milan. serve per un ritorno al passato, questa nostalgia del Milan che fu, a parte che anche quel Milan di Boateng non era fra i più grandi, insomma meglio di adesso di sicuro. Non capisco perché Galliani faccia sempre queste cose che lo riportano al momento nostalgico. Un giorno o l'altro riporterà anche Shevchenko, riporterà anche Pato, i suoi grandi innamoramenti, non lo so, sinceramente davanti, come dicevo prima, il Milan era già attrezzato, se non attrezzatissimo. Rientreranno Balotelli e Menez, ora a gennaio ci hanno detto. Boateng può dare un po' di muscolarità, forse davanti, sinceramente non lo so, sono questi colpi che vengono in mente a Galliani e che probabilmente gli vengono suggeriti da qualche procuratore con il quale lui lavora, di solito. Ripeto, il Milan si deve decidere a fare una cosa che non fa da anni, da quando è andato via Pirlo: prendere un costruttore di gioco, una mente in mezzo al campo. Se sarà Witzel, come diceva Damiani, non lo so, costa moltissimo, ma finché non prenderanno un giocatore di quel tipo lì, ci sarà sempre qualcosa che manca, come adesso, al centrocampo ci sono tanti giocatori che non ne fanno uno. Compratene uno buono e poi il Milan tornerà. Che cambia faccia. Grazie Enzo, ci fermiamo qui. Grazie a voi, tanto auguri. Ciao, auguri a tutti, anche ai nostri amici ascoltatori. Ciao, presto. Auguri Enzo Bucchioni, auguri anche a tutti voi, perché noi ci fermiamo qui. Poi in realtà domani c'è il meglio di, con Carlo Genta, vi faremo risentire le cose più belle di queste ultime settimane di tutti i convocati, che però è come la Premier League. Cioè, durante le vacanze non vi abbandona, noi saremo in onda da lunedì 28 in diretta e andiamo via sparati fino alla ripresa del campionato. Col 3 gennaio riparte anche l'appuntamento con tutti i convocati weekend la domenica, quindi non vi lasciamo soli nemmeno in vacanza. Un ringraziamento a Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Andrea Roccabella in regia. Ciao e buona sera a tutti.